Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti i nostri cari ascoltatori, un affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio, stasera abbiamo un ospite illustre in carne e ossa, non virtuale. Decisamente, ecco. No, in carne e ossa. È meglio che lo salutiamo subito. Certamente. Ed è il dottor Gian Domenico Mazzocato. Niente dottore, niente professore, titoli accademici. Buonasera allora. Diciamo una figura di punta dell'intelligenza trevisana e non solo. Sì. Basta. Allora buonasera a lei. Buonasera. E benvenuto alla nostra trasmissione. Mi fa ci sempre fa grande, piacere. Grande piacere, certo, dire. Un grande piacere. Sì. Vabbè, Antonio? Io volevo salutare prima di tutto la signora Egle, naturalmente, questo il va sans dire. Sì. E un cordiale benvenuto alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Nostro coordinatore. Sì, li salutiamo sempre cordialmente. Allora, prima di dare la parola al nostro ospite, al quale, come la sottoscritta, piacciono le canzoni anni 50, ci ascoltiamo la prima canzone anni 50. Che poi a me piace in modo particolare, chissà perché. Io volevo è cantato da Carla Boni. Guarda la luna nel cielo, stasera è romantica. Ti incanta il vento con una canzone nostalgica. Ma nel tuo sguardo c'è un gelo che non puoi nascondere. Mi sta dicendo che ormai per me finisce qui. Io volevo stare con te tutta la mia vita. Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Gian Domenico Mazzocato. Naturalmente non servono presentazioni, ma qualche così un appunto vorrei farlo sul fatto che abbiamo di fronte il presidente dell'Ateneo di Treviso, che non prestigiosa è poco. Istituzione fondata da Napoleone nel 1810, scrittore, giornalista, camperista, fotografo, uomo di cultura, prefatore sommo. Ecco, le prefazioni di Gian Domenico sono qualcosa che mi danno sempre tra la gioia, l'emozione, il sentimento. Mi piace scrivere per gli amici. Perfetto, che me lo chiedono. Allora lasciamo la parola a Gian Domenico. Niente, questa è una cosa, è anche gratificante e confortante. C'è un amico che manda alle stampe, che so, una silloge di poesie oppure una raccolta di disegni, eccetera, e mi chiede di scrivere qualcosa di presentazione. Io offro delle chiavi di lettura, però adesso vi dico una cosa che sanno in pochissimi. Io scrivo prefazioni, però sono soprattutto un titolista. Sapete quanti mi chiedono, e io gli dico: sì, però che sei il titolo da cambiare, così non va bene. E mi sono, tra le altre cose, creato una fama da titolista, per cui ci sono libri che escono proprio col mio imprinting. Guardate, l'ultima cosa è, voi tutti conoscerete l'ingegner Gianfranco Vivian, sì, scrittore di montagna, certo, documentarista, sì, e sì, fotografo e viaggiatore, Himalaya, Patagonia, eccetera. E lui è un grande acquarellista. Io nel mio appartamento al mare ho proprio un suo acquarello bellissimo, e si è deciso a fare il catalogo, solo che non sapeva il titolo. E allora lui mi dice: ma bisognerebbe metterci la luce qua e là. E io gli ho suggerito il titolo con cui uscirà questo catalogo, che è semplicissimo: Tutti i colori della luce. Che bello, bello. Ecco lo spunto. Ecco, questa è una cosa che se ne impara un giorno, sapevo. Ma quando lavoravo in un quotidiano che poi è stato chiuso, che è l'Eco di Padova, lì impari il mestiere del titolista, esattamente. Perché nei piccoli quotidiani di provincia bisogna tutti essere molto bravi a fare un po' tutto, quindi anche i titoli. Anche a me piacciono i titoli, infatti prima gli ho chiesto i titoli. I titoli per me dicono che ti catturano l'attenzione. Bello. Io purtroppo tante volte anche i titoli magari non sono adeguati, però generalmente il titolo ti dice. Ma io dico che, per esempio, tanti amici poeti che vogliono memorie della mia vita, ricordi, è un titolo che banalizza. Sì, è pesante, sì. È un po' sciatto, chiamiamolo così. Forse. Sì, già sentito. Esatto. È già sentito, esatto, cioè non ti invoglia. Non ti invoglia, giusto. Per esempio, non so, il nostro amico, il poeta Barbondis Presiano, no? Il suo volume di liriche, un po' in italiano, un po' in dialetto, Ruspa Raspa gliel'ho inventato io. Ruspa Raspa. Ma senza nessun merito, togliendolo da un suo verso. Sì. Ecco, insomma, faccio anche i titoli oltre che le prefazioni. Bello. Eclettico, diciamo, ecco così. Ecco, uno dei titoli a me che ha ispirato una lettura è Finché le stelle saranno in cielo. E difatti il romanzo, era un romanzo così, un romanzetto da leggere mentre ci si riposa. Mi ricorda Cronin. Tutt'altro. Le stelle stanno a guardare. Sì, che poi è molto difficile, cioè un libro molto complesso. Le stelle stanno a guardare. Bene, a te la parola. Parlo io? Sì, certo. Ma allora possiamo cominciare dall'ultima cosa importante che ho fatto, che è Il vino e il miele, che è una biografia raccontata come un romanzo, una biografia del grande poeta trevigiano del VI secolo, Venanzio Fortunato, nativo di Valdobbiadene. Questione un po' complessa quella della sua nascita valdobbiadenese. diciamo che ci manca la pistola fumante in mano, certo. Ma il 99% delle prove inclinano per un, c'è Vittorio Veneto, insomma, certo, che vorrebbe arrogarsi questa nascita, prima, ma insomma, studiando l'opera di Venanzio, credo si debba proprio andare a concludere. Non entriamo in questa cosa che è anche abbastanza tecnica. Io sono convinto che lui sia di Valdobbiadene. E in questa vita che racconto, ricordo Compiano Editore, che ha accolto questo progetto a braccia aperte. Ecco, c'è anche, e di questa cosa vado molto fiero, c'è anche una ricchissima antologia di suoi testi. Il testo latino, per chi ama, per chi non lo ama, non, certo, fa altro che trascurare. Sarebbe un peccato. C'è proprio una, noto una bella e positiva fama, sì, di latino, fame di latino in giro. Esatto. E poi le traduzioni, le mie traduzioni, proprio un'ampia scelta antologica che prende in mano un po' tutti i libri dei Carmina e poi di un argomento che è un po' centrale anche alla mia, come al mio lavoro di traduttore, ma anche di indagatore, di studioso, di antropologo, diciamo, che è la vita di San Martino. La vita di San Martino, che è l'ultimo grande poema epico della classicità in esametri latini. L'esametro è il verso tradizionale dell'epica. E non è un caso, perché San Martino viene sentito da Venanzio Fortunato come l'atleta di Dio, esatto, da celebrare appunto con il verso epico. Mm-hmm. In quattro libri, sono circa 2300-2400 esametri, molto complesso, molto complesso. Immagino. Ma bisogna dire che per un traduttore la complessità è gioia. È gioia, chiaramente, perché è una sfida, diciamo. Esatto, perché ti aiuta, tu devi scrivere, tu devi, per tradurre, metterti dentro la psicologia e la testa. E naturalmente sono le situazioni difficili che ti consentono questo. Esattamente. E chi dice che quello del traduttore, e a chi dice che quello del traduttore è un mestiere poco creativo, ricordo un vecchio detto cinese: il traduttore è un ballerino, ahimè, costretto a danzare in catene. È vero che sei vincolato dal testo, ma la danza è tua. La danza è tua. Umberto Eco intitola il suo manuale di traduttologia dire quasi la stessa cosa. In quel quasi si gioca tutto il ruolo, tutta la creatività del traduttore. A me piace molto tradurre. Io ho tradotto, come forse sapete, l'opera di Tacito, l'opera di Livio. Tradurre Venanzio Fortunato è completamente un'altra cosa, perché Venanzio Fortunato vive nel VI secolo, quindi è anche un'altra lingua. Inutile che ci sia un altro latino, è un testo molto complesso, ripeto, ma la complessità è una sfida. La complessità ti aiuta a radicarti dentro il personaggio e a capire che vuoi i tradurre. Tempi, io credo. Sì, è una cosa straordinaria. Ma capire anche i giri di frase, il modo di pensare, le sue opposizioni mentali, il suo bianco, il suo nero. Splendido. E cosa gli piace quando si va in tavola, cosa non gli piace delle battute degli amici, cominci a capire quelle cose. È una cosa affascinante, decisamente straordinaria. Ma allora scrivevano quasi tutti in latino, mi pare, da quell'epoca. Venanzio Fortunato vive in un periodo in cui la cultura celtica, quella che poi produrrà le grandi dinastie dei Capetingi e dei Carolingi, comincia a farsi vivo con dei sostrati linguistici non latini. Ma Venanzio Fortunato è l'ultimo che realizza proprio una sintesi tra non solo la lingua, ma anche la cultura gallica e la cultura romana. E in un ambiente, come dire, delatinizzato, lui era ancora capito parlando latino, ma non solo, veniva sentito come un blasone, come uno status, certo, symbol. Sì, quando lui entrava in un convivio e scioglieva due versi al padrone di casa, magari nell'occasione di un battesimo, certo, dell'inaugurazione, sì, di una casa, era il fiore all'occhiello. Certo, era un plus, certo. Era una cosa, sì. E lui era quello che in un'epoca ormai di decadenza teneva ancora alto e parlava la lingua che era stata di Cicerone, di Lucrezio, di Virgilio, e avere Venanzio Fortunato invitato alla propria mensa era un titolo d'onore, uno status symbol vero e proprio. Ah, che bello. Bello. Bello, bello. Ci fermiamo un attimo. Ci fermiamo per una canzone. Allora ci ascoltiamo da cantata da Nilla Pizzi, Campanaro. Campanaro della Valpadana, per chi suoni la campana, tu che inviti i valligiani al vespro e alla preghiera mattutina, oggi suoni ma nel cielo implora la tua voce arcana. Si sposa e se ne va lontana. Din don dan, suona lieto il campanil del Redentore. Din don dan, sei felice pur ti piange il cuore. Campanaro del gran San Bernardo, per chi suoni la campana, nella notte di bufera un'ombra in mezzo al turbine cammina, l'emigrante che spatriò sognando una ricchezza vana, sulla neve si trascina tuo squillo e la salvezza umana. Din don dan, rivedrà la sua casetta tutta in fiore. Din don dan, tornerà dove ha lasciato il cuore. Eccoci di nuovo in studio col nostro ospite al quale daremo la parola. Ma allora, sì, prego. No, mi ha veramente affascinato quello che ha detto fino adesso, e anche quello che si diceva prima. Ah, cioè, tra le altre cose, Venanzio è stato, come dire, il mio passaporto per un argomento che poi è diventato centrale, devo dire, nella mia vita di anche di intellettuale e di studioso, perché un editore mi ha chiamato, mi ha chiesto di tradurre appunto questo poema. Nel libro che dicevo prima, Il vino e il miele, c'è un'antologia dei testi. Qui sto parlando invece della traduzione integrale della vita di San Martino, tutti e quattro i libri. E io sì, ho accettato, è lavoro, sono cose che firmi il contratto, ma poi questa figura di San Martino per strada mi ha fortemente interpellato. Ho cominciato a mettere qualcosa nel mio sito, lo posso ricordare? Certamente. Se qualcuno mi vuole venire a trovare, www.giandomenicomazzocato.it, quindi semplicissimo, ho cominciato a mettere qualcosa. Beh, io le due settimane centrali di novembre, l'11 novembre è la festa, esatto, di San Martino, sì, sono in tutta Italia, in tutta Francia. Sì, a tenere conferenze su San Martino, che è una figura, io lo chiamo un santo per tutte le stagioni, è una figura di grandissima attualità. Ricordo che è vissuto nel IV secolo, nato verso il 313. 314 forse, e si è impiantato nell'immaginario collettivo per quel suo gesto di tagliare il mantello, e darne metà al povero. Però di lui non sappiamo niente altro. E non sappiamo bene neanche come interpretare quel gesto. Per esempio, se io adesso dico, lo sapete, non lo sa nessuno, era un ragazzino di 16 anni, penso, quello che ha tagliato, viene magari rappresentato guerriero vecchio, sì, sì, è un ragazzino di 16 anni che alle porte di Amiens vede un povero e taglia il suo mantello in due. E Venanzio Fortunato, che è poeta straordinario e come tutti i poeti straordinari ha delle capacità di sintesi notevolissime, dice: un po' più di freddo a me, un po' più di caldo a te. Lui non è il ricco che spartisce un privilegio, è un poveraccio, solo un po' meno poveraccio di un altro, che dice: senti, io sto un po' meno bene e tu stai. Empatia pure. Che è quello che sta scritto sopra nei Vangeli. Esatto. Quod superest date pauperibus, che non vuol dire esatto, ciò che è superfluo date ai poveri, no, ma ciò che è superest, ciò che è sopra la vostra tavola, sì, sì, toglietevi sì, il cibo di bocca. Esatto. E Martino lo fa. E Martino lo fa. E quel gesto lo ha scolpito per 17 secoli nell'immaginario collettivo. E allora tutto il mio lavoro consiste anche nel cercare di vedere come lui ha piantato le dita in questo sentire collettivo, ha messo piede e ha piantato le dita. Allora, per esempio, una prima riflessione che possiamo fare è che la tradizione popolare, vi ricordate che cosa racconta? Che poi nella notte gli appare il Cristo e dice, naturalmente quella è leggenda, no? Certo. Il mantello lo hai dato a me. Però il Cristo, e ce lo ricorda Venanzio, gli dice di riconoscere. Riconoscere. La categoria del riconoscere è una categoria, un'idea essenzialmente cristiana di tipo orientale. Vi ricordo la filosofia di Platone, l'anima deve salire al cielo per riconoscere i propri archetipi. Ma, per esempio, tanto per dire una cosa che sanno tutti, Ulisse torna ad Itaca e si fa riconoscere da Penelope, rivelandogli un segreto che solo loro due possiedono. Perché riconoscere vuol dire aver fatto qualcosa insieme, essere complici, avere un progetto in comune. E poi c'è la categoria invece più occidentale, il rivestire. La Bibbia è piena di grandiosi esempi del rivestire, perché il rivestire da dignità. Cosa fanno i soldati sotto la croce del Cristo? Si giocano a dadi i vestiti. Difatti, sì. Non per giocarseli a dadi, ma perché è il segno del disprezzo per il crocifisso, per l'uomo che sta in croce. Esatto. E quante volte nella Bibbia troviamo Yahweh che ritrova la chiesa che si è prostituita, il suo popolo in cammino che si è prostituito e le toglie i vestiti della prostituzione e le mette addosso i vestiti puliti, il bisso candido, il candore. Riconoscere e rivestire, in quel gesto di Martino ci sono queste due categorie profondamente attive nel nostro pensiero, e questo spiega il grandioso successo di questa immagine. Io quando vado in Francia, è già il secondo o terzo pellegrinaggio martiniano che faccio nei luoghi in cui lui è stato, Marmoutier, Ligugier, Tours, Poitiers, vescovo di Tours, evidentemente sono stato sulla sua tomba, ho pregato sulla sua tomba, grandiosa. Ecco, ogni volta scopro, sempre alla ricerca di iconografia, di immagini e così via, e ogni volta scopro aspetti nuovi e anche un profondo attaccamento della Francia, è molto più attaccata di noi, sì. Come a Venanzio, del resto. Esatto. Noi Venanzio, qualche trevigiano sa che esiste Venanzio, sì, perché c'è la via a lui indicata. Esatto. Venanzio è un signor poeta. La Belle Lettre ha pubblicato tutta l'opera latina di Venanzio. Vorrei fare un commento, ma non posso scendere nel turpiloquio per parlare nel nostro sì. E andiamo pure ma insomma, sostanza, lui dove è nato? Allora, lui è nato in Pannonia, che sarebbe grosso modo l'attuale Ungheria. Sì. È nato in una città che oggi si chiama Szombathely e che allora si chiamava Szabária o Szavária, sulla Drava. Giovanissimo entra, giovanissimo si trasferisce in Italia, a Pavia, dove entra in contatto con gli ambienti del catecumenato pavese. Il padre non è molto contento di questa cosa, lui riuscirà a convertire sua madre, ma non suo padre. Esatto. E approfittando di una piega del regolamento militare che consentiva ai figli dei veterani, lui, il padre di Martino, era un veterano, Martino è piccolo Marte, Piccolo Marte, quindi il padre già gli aveva dato questo particolare impronta, sì, e lo fa arruolare. A 15 anni e mezzo Martino si trova arruolato ed è proprio questo ragazzino di 15 anni e mezzo che alle porte di Amiens in Francia compie il gesto clamoroso del mantello tagliato in due. Ci sono anche i suoi compagni che lo prendono in giro. Bene. Perché non capiscono la grandezza del gesto, sono tutti più vecchi di lui. Gesti provocatori, ecco, questa è la grandezza del cristianesimo, eccetera. Certo. Questo andare contro ogni convenzione. Beh, lui, guardate, che si è messo contro tutto l'episcopato francese, tutto l'episcopato gallicano, insomma, diciamo. Mm-hmm. Tutto. Lui è stato veramente un vescovo controcorrente. Perché i vescovi galli, diciamo, francesi, per dirla attuale, erano tutti, come dire, ben sistemati dentro l'establishment. I giovani dell'aristocrazia gallo-romana andavano nei seminari perché andavano a stare bene. Lui li faceva correre. Quando il vescovo era un'autorità soprattutto civile, lui ha fatto del vescovo un'autorità religiosa, ma soprattutto un'autorità che esce fuori dalle mura. Quindi morale. Ma fonda le parrocchie rurali che non esistevano, perché era tutta pagana la campagna, e soprattutto inaugura la tradizione delle visite pastorali, il vescovo che va, e quindi il lavoro anche di formazione dei preti, perché se crei le parrocchie devi formare i preti per starci dentro. E in uno di questi suoi viaggi a Cannes, condate romano, lui muore non l'11 di novembre ma l'8 di novembre, perché l'11 è il giorno dei suoi funerali. Ecco. Sono stato naturalmente a Cannes, questa bellissima cittadina in cui la Vienne confluisce nella Loira, e il suo funerale, santo subito, con tutti i consacrati da lui, suore e preti, si parla di migliaia di persone a fargli ala sulle due sponde del fiume, e lui torna a Tours. Meriterebbe un film. Antonio, avrei giurato che tu l'avresti detto. Perché la visualizzazione, cioè la potenza dell'evocazione di questa storia. Guarda, Antonio, ti dico solo questo: tu dici un film. L'ultima volta che sono stato in Francia, ho trovato ben 3 volumi a fumetti sulla vita, che naturalmente ho preso e portato a casa, sulla vita di San Martino. È un eroe dei fumetti. Tu prova a pensare. Prova a pensare alla cultura. E tra le altre cose, 3 disegnatori, ma soprattutto 3 modi di raccontare la sua vita completamente diversa. Io ho analizzato anche un piccolo saggio che ho fatto, alcuni episodi chiave della vita di Martino, e ho visto che sono trattati in maniera diversa, a seconda, giustamente, delle diverse sensibilità. Certo, di come uno lo vede. Incredibile. Bello. Incredibile. Allora noi potremmo anche passare ad un altro. Quindi lui è morto, non è morto tanto giovane, vero? Non è? No, lui è morto adesso, io in questo momento sto andando a braccio, mi pare sia morto nel 397 e ha attraversato tutto il secolo. Credo sia giusto 397. Comunque posso dire una cosa: la voce Venanzio Fortunato sulla grande enciclopedia informatica sui santi e sui beati, www.santiebeati.it, è mia, l'ho curata io. Bene, complimenti. Scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Andremo a visitare anche quella. Il grande portale cioè uno vuole sapere quando compie, quando compie, quando so, ecco, tutti i nomi. Santi e Beati. www.santiebeati.it sì, è un sito immenso. Benissimo, naturalmente. Oh, andremo a visitarlo anche quello. Faremo una ragione. Vabbè, allora andiamo avanti con un... Benissimo. E nel mio sito, sì? Non so se l'ho detto prima, c'è per esempio tutta la mia traduzione della vita di San Martino. Chi va lì trova, io lo faccio anche per fare pubblicità, naturalmente, perché chi va lì poi mi chiama, evidentemente trova pane per i suoi denti, è interessante, diciamo. Certo, vino e miele, e attenti, se dopo mi date un altro minuto nello spazio successivo, vi racconto perché è casuale, ma non è casuale, che San Martino sia il giorno fondamentale nel calendario agricolo, quello del rinnovo, sì, sì. O del mancato rinnovo dei patti agrari. È assolutamente casuale, ma non è casuale. È molto interessante. Restiamo in attesa con grande curiosità. Sì. Allora, Antonio, questa qui l'annunci tu, per piacere. Questa è americana? Sì. Questa è allora Love Letters in the Sand, è un vecchissimo e straordinario degli anni 50. Successo degli anni 50 di Pat Boone, che si dice fosse nipote di Daniel Boone, eroe del West. È morto a Fort Alamo, insieme con Davy Crockett, esattamente. Attaccato dal generale Santana. E questa è cultura. Quante belle cose che impariamo. Sì, altro che. Bene. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro ospite che ci racconta delle cose interessantissime. Allora, dicevo prima, ma lo dicevo in maniera un po' paradossale, l'11 di novembre, festa del quello che in dialetto si chiama lo scomio, la disdetta, sì. Ben raccontato da Ermanno Olmi, per esempio, nell'albero degli zoccoli. È il giorno del rinnovo dei patti agrari, ma è anche il giorno in cui quei patti agrari potevano non essere rinnovati. Anche cambiano casa. Ma naturalmente è casuale che l'11 di novembre capiti così. Chi indaga con occhio critico e occhio tipico dell'antropologo questi fatti, scopre delle cose incredibili. Per esempio, dopo racconto quella cosa, ma adesso mi viene in mente per associazione, San Martino è patrono di mille categorie, di mille persone e di mille situazioni, ma è anche il patrono dei mariti e delle mogli che hanno il partner infedele. È il patrono dei cornuti. Ora, c'è un episodio nella vita di San Martino che lo collega ai mariti e alle mogli tradite? No, però è il tipico santo autunnale, cioè è il tipico santo della stagione dei grandi mercati di bestiame. Ecco che le corna del bestiame portano a una identificazione di tipo psicologico. E chi è che deve proteggerci dalle corna? Dalle corna. San Martino. San Martino. San Martino. Ecco. Allora, quindi, per dire, allora, c'è un episodio nella vita di San Martino, lui era già vecchio e già vescovo di Tours, che lo lega al mondo dei poveri, degli umili, dei diseredati in maniera incatenata. E adopero questo termine non a caso. È a Tours, lui vede un corteo che si avvicina da distante, il corteo è formato da un piccolo esercito e da una lunga processione di uomini in catena. Sono quelli che non hanno pagato le tasse. Una volta l'esazione delle tasse era affidata ai privati che avevano un piccolo loro esercito e naturalmente prendere dei contadini che non avevano pagato le tasse e portarli in catene alla forca ed eseguire la pena di morte aveva un valore esemplare per gli altri. Se non paghi fai sta fine. San Martino, Martino, lo chiamiamo Martino, Venanzio ci va pesante, anche la neve eccetera, scende dalla sua e si avvicina. In tutto l'episodio Martino non dice una parola, si avvicina alla casa di questo esattore che dispone di un esercito e che si chiama Aviziano, e si mette lì. Un angelo nella notte, il racconto popolare, va a visitare in sogno Aviziano e gli dice: guarda che fuori c'è Martino che ti aspetta. Aviziano chiama i servi vanno fuori, dicono: il vecchio è proprio impazzito, non c'è nessun Martino qui fuori. Martino continua a rimanere lì, reso invisibile in questa occasione, continua a rimanere lì. L'angelo torna nel sogno di Aviziano, Aviziano si sveglia, questa volta va lui fuori e vede Martino. E gli dice: Martino, tu non sei leale con me. Il racconto di Venanzio è proprio emozionante. Tu non sei leale con me perché tu sei solo, ma dietro di te hai l'esercito di Dio. Io sono in compagnia, ma il mio è solo un esercito di uomini e di avventurieri. Prende su, torna e il giorno dopo libera tutti i prigionieri. Ecco, secondo me questo episodio lega profondamente Martino alla figura che gli viene affidato del santo dei poveri, degli ultimi. È proprio tipico. Che bello, bello episodio. Sì. Cose straordinarie, sicuramente, che portano così la fantasia a capire quale potenza abbia autorevolezza, questa straordinaria. Proprio. Quindi lei va spesso in giro, come ho capito io. Sì, molto. Va a fare delle conferenze, va a fare... Beh sì, San Martino mi porta in giro per conferenze, ma quello appunto è lavoro. Quando riesco a prendermi ferie, io viaggio col mio camper, con la mia compagna, con mia moglie. E dove va di bello? Ma insomma, io da Capo Nord a Gibilterra la vecchia Europa l'ho visitata tutta, insomma. E chi viene nel mio sito trova quasi tutti i miei diari di viaggio, con fotografie, indicazioni, quanti mi scrivono: guardi che ho fatto il mio viaggio esemplandolo sul suo, e così via. L'ultima meta, l'anno scorso, non sono riuscito a far ferie, e con mia moglie per disperazione abbiamo scelto una meta, ripeto, l'abbiamo scelta per disperazione, l'unica regione italiana che non avevamo mai visitato, ma alla cieca, il Molise. Abbiamo trovato una bellissima terra e una stupenda gente, ecco. Con dei luoghi che sono fuori dei grandi itinerari. Ma prima parlando ne illustravo un paio. Per esempio, Pietra Abbondante, basta andare lì per capire. Sì, Pietra Abbondante è già un nome noto. Sì, tra le altre cose ha una terrazza naturale, praticamente stando lì sopra vedi il Molise da nord, beh, una cosa, con tutti i paesi ad anfiteatro, una cosa bellissima. Pietra Abbondante è il più importante sito archeologico della cultura sannita. Ecco qua. E tra le altre cose è venuto alla luce una serie di templi, ma è venuto alla luce ed è stato restaurato un teatro bellissimo su cui a cui fanno riferimento le migliori compagnie italiane. No. È un altro luogo per chi volesse andare da quelle parti, a 20 chilometri da Campobasso, che è una cittadina deliziosa, a 20, ripeto, grande gente che ti aiuta, ti ospita, a 20 chilometri da Campobasso, Altilia Sepino. Altilia Sepino, anche Altilia mi è rimasto Sepino, sì. Che è un borgo romano con le sue mura, il suo teatro, i suoi insediamenti, per certi aspetti da mettere vicino, non lo conosce nessuno, da mettere vicino a Pompei. Ma pensa, è proprio una città con le due vie, il Cardo e il Decumano, che lo tagliano a croce, uh-huh. lo si visita volendo in mezz'ora, in un'ora, in due ore, qua e là, ma proprio è un passo indietro nel passato. Penso che è un passo indietro. Bellissimo, penso che bellissimo. Bello, che bello. Per dire la brava gente del Molise, no? Lì c'era un parcheggio non ancora aperto, perché credo sia in mano a privati sto sito archeologico, che lo rispettano, la strada del Foro Romano è magnifica, e però era ancora chiuso. Io arrivo col mio camper e parcheggio invece davanti a una trattoria che era lì. Vado, chiedo alla signora, alla padrona della trattoria: signora, posso parcheggiare qui il camper? Perché deve parcheggiare qui, perché lì la fanno pagare. Che gentile. Ma dove trovi qui gente del genere? Siamo assolutamente quelli che si dicono. Sì. Tra l'altro, non so, se mi sbaglio, ma Liguri e Apulo Sanniti sono gli unici popoli che i romani non sono riusciti a sottomettere. È verissimo, e loro te lo dicono con orgoglio. Oh, in centro a Pietrabondante c'è un monumento proprio al guerriero Sannita. Sono, devo dire, e loro te lo dicono orgoglio, gente fiera. Lascia aperta la porta del suo camper, sono fieri di essere l'unica regione meridionale non contaminata da mafia. Sembra un altro mondo. Dicevo anch'io prima, che sembra un altro mondo. Straordinario. Un mondo che A Campobasso, il giorno del Corpus Domini, fanno una processione con delle grandi macchine, apparati, che vengono portati sulle spalle. Ma ciò che la rende unica al mondo è che quelle macchine, con gli episodi di vita dei santi, sono interpretate da persone vive, che vengono issate e portate in giro per il paese. Fanno delle selezioni, le persone che pesano poco, i bambini, visite mediche. Perché poi, quando sono lì sopra, fra il metterle lì e il tirarle giù, passano 5 ore. Pensa un po'. E vanno in giro per il paese. È meraviglioso. E hanno il museo, il museo dei misteri, in cui tira. Purtroppo io non l'ho vista, ma un Corpus Domini giù me la vado a vedere. Penso che valga la pena andare a vedere. Ho visto i filmati, ho visto i filmati di edizioni precedenti, proprio dentro a questo museo dei misteri, si chiamano così, misteri. Cioè, lì è maturato il proposito di tornare e vederli dal vivo, insomma. Mamma mia, che belle cose. Cose oltretutto che sono, io sfido chiunque a conoscerle così, a saperle. Chi vive come me e mia moglie di queste curiosità, anche nei momenti difficili della vita, in cui sei attraversato da tante preoccupazioni e da altri pensieri, vivi ogni momento come una scoperta. Per esempio, questa cosa di Campobasso non la sapevamo proprio. Abbiamo trovato una persona che ci ha fatto da guida, si è offerta di farci da guida, splendida gente, lo ripeto la terza volta. Una meraviglia. Ci ha fatto vedere. Noi torneremo lì un Corpus Domini. Deve essere stupendo. Certo. Anche perché il Corpus Domini ha sempre affascinato questa processione, tutti questi fiori. Non è un'infiorata. Perché infiorate io ne ho viste tante, da Gubbio, ma ci sono questa molte regioni. È una cosa unica. Sì, questa cosa è proprio unica al unica mondo. Mondo, sì. Ma selezionano i bambini per fare queste cose. Gli fanno le visite prima fisiche per vedere se tengono, perché questi bambini dovranno pure fare la pipì, o bere, e poi gli fanno la visita psicologica, perché devono avere una tenuta un particolare, però nelle loro famiglie vengono allevati. con la prospettiva di fare sta cosa. Certo. E quindi è un onore grandissimo. Certo. Esatto. Bene, tutto meraviglioso, come la canzone che è intitolata Meraviglioso, cantata da Domenico Modugno. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. Il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso. E ti sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche e diamo la parola al nostro ospite. Anzi, volevo fare io una domanda. Allora, adesso che progetti ha? Sta scrivendo qualcosa? Beh, io faccio il mio lavoro di giornalista normale, insomma. Ricordo, se mi è consentito, che per il settimanale diocesano ogni mese io tengo una rubrica di lettura. Prendo in mano un argomento e su questo argomento traccio un possibile itinerario. Posso intervenire? Ti interrompo? Prego. Splendida. Decisamente è un qualcosa di affascinante. Ormai 5 anni che ci vado avanti. Bello. Ho fatto quasi più di 60, 60 argomenti. Sono diversi. Tematici, non è che abbia intenzione di fermarmi. Ma lo voglio dire perché tutti coloro che mi manderanno, approfittando del giro nel mio sito, il loro indirizzo di posta elettronica, io gliela faccio avere proprio la pagina. Antonio molto, lo riceve. Sì, molto interessante. Manderò il mio indirizzo. Allora, sarà proprio così un dovere. Insomma, il mio lavoro di di traduttore. Sì, così. Sì. Invece, però, insomma, il mio tabernacolo, mio cuore duro, insomma, ecco, il mio centro, il mio nucleo, resta, insomma, la narrativa. Quindi? C'è un romanzo che ho appena finito e che vorrei far viaggiare con gambe diverse dai romanzi che ho fatto viaggiare fino ad ora. Più un romanzo che sto scrivendo adesso e che darò in mano a un editore locale, mi auguro molto presto. Il primo romanzo, quello che ho finito, è un romanzo lungo, un romanzo fiume. Io non esito, non mi vergogno a dire che è un vero e proprio feuilleton. C'è un romanzo d'appendice, ma la gioia che ho provato scrivendolo. Un giorno stavo presentando i miei libri, non mi ricordo dove, si presenta da me un signore e fa: sa tu chi che sono? No, non ti conosco. Non so chi sei. Beh, questo signore era il maestro Giuseppe Nalin, uno dei più grandi oboisti che esistano, chiamato ovunque in Europa, il quale mi ha detto: senti, siamo passati a darci del tu immediatamente, ci sarebbe una storia da raccontare, dimmela. E io naturalmente avevo già i miei progetti di scrittura. Quando uno mi dice una cosa del genere ti destabilizza, ma sì, che dico, parla pur, ma dentro di me penso o asso parlare per creanza. E invece mi ha destabilizzato proprio, perché mi ha fatto vedere dei frammenti della storia di un castrato del Settecento. I cantanti che venivano, per il grande Farinelli, sì, è il più famoso di tutti, il mio lo trova, lo conosce. Lo conosci. Ma solo che poi, mettendo insieme le notizie che abbiamo di questo castrato, abbiamo visto che sono pochissime. Naturalmente è stato quello che è stato decisivo per me, perché per uno scrittore lo spazio dell'invenzione, cioè se io devo raccontare una cosa che è già tutta scritta, oppure lo faccio ma sapendo che è quello, insomma. Certo. E invece qui lo spazio dell'invenzione era proprio dilatatissimo. Nasce nel Polesine, si trasferisce a Venezia dove studia, poi Parigi, e conosce Goldoni, poi Parigi, e poi Londra, dove conosce Handel. E conosce tutta una serie di grandi personaggi, e quelli che non conosce glieli faccio conoscere io, perché il romanzo è diventato un romanzo sulla... Faccio una premessa. Forse qualcuno ha visto quel bel film, io dico bello anche se è un fumettone, che è Farinelli, voce regina. L'immagine tradizionale del castrato è quello dell'artista bizzoso, capriccioso. Farinelli ne aveva ben d'onde, lui ha avuto in mano le sorti politiche d'Europa. Il re di Spagna lo teneva sotto di sé, gli dava 2000 dobloni all'anno, cioè un mare di denaro, però... purché cantasse solo per lui. Ecco, io invece l'ho rappresentato come una specie di eroe dolente, che non raggiunge mai l'apice del successo, come in realtà è stato, non l'ha mai raggiunto, ma come un eroe dolente che è sempre arrabbiato contro chi lo ha privato di una parte fondamentale del suo corpo, in cambio di qualcosa di cui lui gode, ma di cui non è e allora ha sempre questo sentimento di rivalsa, soprattutto verso sua madre, verso suo padre, ed è tormentato dentro. E in tutta la sua vita lui cerca qualcuno che scriva un libretto per un'opera in cui lui possa mettere dentro la propria storia. Io l'ho anche l'ho individuato io nella mia invenzione, questo libro. È la vicenda che la Bibbia racconta in Giudici 11 e 12, ed è la storia di Jefte. Jefte è il figlio di una prostituta che viene emarginato dal popolo di Israele, ma quando il popolo di Israele è sotto minaccia di un esercito nemico, lo vanno a chiamare. E lui torna, è investito della parte, dice prima della battaglia decisiva al suo signore Dio, a Yahweh, dice: fammi vincere questa battaglia per il mio popolo, quando tornerò a casa io sacrificherò la prima entità, il primo essere, mai più pensava che sarebbe stata la sua unica figlia. E allora io cerco, dico al mio amico, perché il romanzo è scandito dalla vicenda del mio personaggio che si chiama Angioletto, sì, e dalla vicenda mia che cerco le sue tracce, sì, un capitolo oggi e un capitolo nel Settecento. Certo, certo. Telefono al mio amico che mi aiuta nella mia ricerca e gli dico: sai chi abbiamo conosciuto? Abbiamo conosciuto l'altra faccia di Dio, perché non è Dio che ferma il coltello che si è alzato per il sacrificio del proprio figlio Isacco. Isacco, certo, certo. Non è quel Dio, è il Dio che permette che Jefte uccida sua figlia. Abbiamo conosciuto l'altra faccia di Dio. Quindi c'è la ricerca del Dio, la ricerca del sacro, il margine sul profano, eccetera. E lui, insomma, vive questa sua vita in continuazione sul filo di una sessualità che odia, innaturale, che ama. Devo dire un episodio che spero non scandalizzerà i nostri ascoltatori, una realtà che non credo scandalizzerà. Allora, l'operazione di castrazione, che aveva dei livelli di mortalità altissimi, 90%, pensatevi voi, era fatta dai barbieri, chi sopravviveva, per lo scompenso ormonale, in un'epoca in cui la statura media era 1,60, poteva diventare alto anche 2 metri, 1,90 m. E pensatevi che i polmoni andavano di conseguenza. Oh, mamma mia. Ingranditi dall'esercizio, diventavano dei veri e propri mantici. Tutti conoscono l'episodio di Farinelli che sfida una tromba a chi tiene la nota più a lungo. E quando la tromba non è più, Farinelli va avanti a trilli per un altro minuto. E quindi erano, come dire, delle grandi macchine prodotte. Noi non sappiamo che voce. Per Farinelli, voce regina, sono state mixate la voce di due cantanti elettronicamente, un uomo e una donna, ma noi non sappiamo che voce avesse. Anche se in internet si trova la voce dell'ultimo castrato, Marchesi, che è stato registrato a Roma dai... sono registrazioni su cera, no? Quindi poco attendibile. Quella che poi sarebbe diventata la BBC mandò a Roma dei propri tecnici per registrare la voce di Leone XIII, voce troppo flebile, per non andare via a mani vuote, registrarono la sua voce, ma è una voce casuale, sgraziata e così via. E questi uomini erano anche, devo dirlo, degli amatori eccezionali, perché non correvano il rischio di lasciare incinta la loro parte, e avevano un corpo che permetteva loro, se posso dire, delle prestazioni che straordinarie, altri che non avevano. Ma è una cosa... E io ho esplorato tutto questo mondo e di castrati in narrativa ce ne sono pochissimo, c'è una novella di Balzac e poco altro, e quindi c'è proprio questo personaggio nuovo che nella mia opera entra nella narrativa. Allora, poi se posso parlare dell'ultima cosa, certamente, che perché siamo quasi in dirittura, siamo in dirittura. Allora, però adesso sto scrivendo anche un'altra grande storia veneta, che è io l'ho trovata in un paese del Vicentino, penso di portarlo in un paese del Trevigiano perché mi viene più in taglio per tanti motivi, motivi proprio di immagine generale, ed è la storia di un delitto, di una violenza consumata su un bambino, rispetto alla quale ci sono pochi dubbi che l'omicida sia quella persona e che le modalità del delitto siano quelle. Però nel tempo che intercorre tra la prima indagine dei carabinieri e il successivo processo, i testimoni cominciano a ritirarsi, a defilarsi, il paese si chiude a riccio, cominciano i non ricordo, cominciano le smemorie, comincia un atteggiamento omertoso, e allora per me è diventato molto, come dire, molto bello l'esplorazione di questo, molto significativa l'esplorazione di questo mondo, di questa chiusura, sì, di questa trasformazione della realtà paesana, che appunto fa sì che poi l'autore dell'omicidio insomma, se la cavichi abbastanza, insomma, perché le testimonianze importanti vengono a cadere. Ecco, sto scrivendo questa storia, penso che esca nel 14, l'anno prossimo, insomma. Bene, bene. Dico, sono storie affascinanti. Altro che affascinanti. Affascinanti perché proprio, diciamo, è l'iperrealtà, se vogliamo, anche quest'ultimo argomento, eccetera. Mi dà proprio il destro per fare un paragone tra il Veneto, diciamo, che era e quello che è oggi. E quello che hai detto mi sembra che si possa decisamente... Il Veneto degli ultimi, no? Esattamente. Ultimi in senso, dei vinti in senso verdiano. Fulvio Tomizza ha detto, bontà sua e mi ha un po' appesantito le spalle, ha detto che la mia narrativa è quella dei vinti veneti, mi ha accostato a Verga, pensatevi voi, no. Che vestiti pesanti mi ha messo addosso. Benissimo, niente. Il problema adesso è che siamo giunti effettivamente alla chiusura, con la vera un vero chiusura dispiacere. E con un grande dispiacere, sì. Effettivamente avremmo materiale. È volata via decisamente. Però e non noi ci resta altro ringraziamo che il nostro ringraziare ospite. Sentitamente il nostro ospite, con la speranza, lo attendiamo naturalmente per le prossime volte. Che a Dio piacendo, chissà che ci si riveda qualche mese. Presto, dai. Speriamo, ecco. Va bene. Allora, ancora la ringraziamo, la salutiamo. E con un presto arrivederci, un saluto affettuoso ai nostri ricordiamo il mio sito www.giandomenicomazzocato.it. Perfetto, ecco, allora vuoi ripeterlo anche tu, Antonio, così www.giandomenicomazzocato.it. troppo è troppo, benissimo, eh. Bene, allora ciao Antonio e al nostro ospite un saluto affettuosissimo e un grazie, e a tutti voi un mio solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.